delle persone che dovrebbero dare l'esempio si comportano in quel modo. No, non è possibile, guarda. Forse erano convinti che non lo sentiva nessuno, invece li sente tutto il mondo, perché uno apre il computer, ti sintonizzi e ti ascoltano. Ti ascoltano e tu entri nelle case degli altri, entri con quel vocabolario così scurribile. Ma vogliamo scherzare? Ma dai, non è possibile. Maleducati proprio parole romanesche, proprio maleducato all'ultimo punto. Me la posso immaginare, così anche questi radioamatori che ci sono in questa zona qua si stanno usando le frequenze alte tipo baracchino e ne dicono di tutti i colori, maleducati, è vergognoso veramente. Qua io mi vergogno a parte loro, perché se io avessi superato quell'esame lì, ma non mi sarei manco sognato di parlare in quel modo così scurrile come parlano loro. Infatti mi hanno disgustato anche per quel motivo lì, per essere a quel livello ci rinuncio volentieri, guarda. Ah, rieccomi. Ciao Marco, ben rientrato, dai. Mi ha detto che stavamo discutendo con Giulio e con Giovanni e adesso è in stand-by Giovanni. Avanti ancora a te Marco. Non te lo posso nemmeno descrivere nel modo come parlavano questi deficienti qua, tutte boccacce sporche, ragazzi, da parolacce e tutti muri. Al computer li sentivo, perché da dentro io accendo, vado sulle SDR, web SDR e li ascolto. E sono entrato sulla stazione Roma 4, Roma 4, sì, per carità, tu dovevi ascoltare o Marco, come parlavano questa gente. Saluto Giovanni, se ancora in ascolto. Ho detto adesso abbiamo tutti la stessa radio, ho piazzato quella lì, Intec HR 5005 alias Anitone alias CRT 6009 eccetera, è vero che va sempre bene, però il mic gli ho messo, il mic quello con la capsula grande, il DMC 507 Lafayette, cioè non è quello originale con i tastini, questo è un tantino migliore di qualità, dovrebbe essere quasi pari al 3009 come qualità. Vai Natalino. Sembra un microfono di tavola, come dicevo, sembra un microfono preamplificato, guarda va benissimo quel microfono Marco. Ehi, aspetta, 1, 2, 3, fa un po' di rumore la mollettina delle... senti vabbè, il PTT, dai, la mollettina del PTT, anche il tastino è plastica un po' rumorosa. Riprendi Giulio, però non ho 2 watt io, aspetta. Io lo lascio sempre alla massima potenza perché sai, ho il filtro che mi toglie già un quarto della potenza, poi c'ho tutto quel cavo, il barilotto aggiuntivo e quindi... Non lo metto mai al minimo, però la prova la vorrei fare. Allora, RF Power. Guarda, messo al minimo dovrebbero essere 2 watt, non di meno. Vedete un po' come va? Ditemi se è peggiorato troppo il segnale. Da Giulio, guarda, Natalino non fa testo. Vediamo da Giulio se ha cambiato. Vai Giulio. Sì, 8. Sì, da Rob si è sceso a 8. Ma va benissimo lo stesso. La radio è ultima, non c'è problema, o Marco. Io più 4 come radio. Intanto, sì, quello originale rimane più basso, sì è vero. Il microfono originale, perlomeno tutti mi hanno detto che è più basso e questo va meglio, non c'è problema. E poi questo è anche più comodo per me, perché nel modo come mi siedo io, mi appoggio col gomito sul coso e per cui rimango sempre alla stessa distanza, eccetera, eccetera. Stessa tonalità, stesso volume del microfono, è sempre il vantaggio uguale, sempre 2 watt, non c'è problema, Marco, va benissimo. Tu immagina se io metto 2 watt qua, il filtro mi toglie un quarto di watt, il cavo tutta la discesa mi toglierà un terzo ulteriore di watt, potrei essere con un watt in antenna mi adesso, un watt in antenna, grosso modo dai. Ma va bene Marco, di uno scendi e battami, cosa ti credi, anche qua, invece arriviamo in fondo scala pieno, vedo il picchi di modulazione. Ecco cos'è. Però il segnale è forte. Anche se tu hai un watt in antenna, stai uscendo alla grande. Sì, in effetti, ti dirò di più. Io dico 2 watt o Marco, perché dovrebbe essere così. Però l'ho misurato col wattimetro, quello serio veramente, KV520, professionale, eccetera, eccetera. E addirittura mi dà 1,5 watt, mi segna lo strumento. Io dico 2 watt perché è quello dell'apparecchio, così. Però in realtà con lo strumento sono 1,5 watt. Eppure è vero che mi ascoltano, non c'è problema, Marco. A questo Smith sei oggi c'ho le corde vocali proprio intirizzite, arrivi quasi 9, tipo 8,5, ma è più per il 9. E questo è bello spento, con luce spenta, perché vedi tutto il display retroilluminato. Sì, ha avuto un successo nel apparato. Io avevo voluto marcato Kenwood, tu dici perché, tanto uguale, e la soddisfazione però di averlo marcato Kenwood, te ne immagini? Diciamo che sì, in effetti è così, avrebbe avuto un tantino più di importanza, però diciamo che questo rientra nella linea del 3009, perché sono quelli, il modulo è quello, ce ne sono 15 mi sembra, addirittura anche qualcuno in più di 15, che hanno tutti lo stesso modulo, magari la caratteristica estetica è diversa, però tutto quel ciò che è interno, anche il funzionamento eccetera, programmazione eccetera, è sempre quello, cioè per un totale di almeno 15 marche, ed è sempre la stessa cosa, perché ho avuto modo di leggere un qualcosa di preciso, e mi sono addirittura finito di più parlando di Kenwood. Mi sembra che ci sia anche una versione Kenwood, cioè denominata Kenwood, però è sempre questo, Marco. Sì, Giulio, mi riferivo a quello. Allora, questo apparato per il mercato russo è stato commercializzato dalla Kenwood, proprio il logo è quello, come apparato 10 metri. E quindi la soddisfazione di averlo marcato Kenwood proprio qua in Italia sarebbe stata enorme. Vabbè, poi l'apparato è sempre quello comunque. Va bene, riprendi Natalino. Sì, cosa? C'era il cane che stava abbagliando. Zitto. Ma Giovanni può riprendere pure il stand by definitivo? Ma non lo so, forse riprende, probabilmente riprende più tardi, sarà impegnato in qualcosina, qualche lavoretto, non lo so, ma siamo qua, se rientra ci fa molto piacere, non c'è problema, ci mancherebbe altro. È un'ottima persona, io la considero così, o Marco, come pochi, ma da sempre, dalla prima volta che l'ho sentito io ho sempre considerato una persona come si deve, cioè proprio uno che si merita di stare tranquillamente in un gruppo dove ci sono persone come si deve, per cui il trattamento è reciproco, no, non c'è che dire, Marco. Ma Giovanni è un vecchio CB che è rientrato oppure non aveva mai avuto la 27 lui? Diciamo che da qualche annetto anche lui, sì, questo è vero, non so da quanti anni, non lo so, però anche lui ormai è presente il 27 da qualche annetto, io me lo ricordo che già da qualche anno, almeno prima del Covid c'era già, mi ricordo che c'era già da allora, poi ancora prima non me ne ricordo, non ho questa memoria, ma suppongo che c'era ancora, non lo so, capito Marco? Lui è camionista, capito Giovanni, e per quello magari ce l'aveva sul camion e parlava nel canale dei camionisti, capito? È perché è camionista lui che ha l'apparato, capito? Eia. Va bene, mi avevo fatto il caffè anche per mamma, pensa che io non l'ho ancora bevuto, lo sai, non l'ho ancora bevuto, lo bevo freddo, ancora caldo non lo apprezzo, però sta cominciando a rinfrescare già un pochino, me ne accorgo perché a stare in boxer e maglietta, comincia a sentirsi freddo le gambe, freddo i piedi. Se lo prendo io il caffè a quest'ora, ma non a quest'ora, ma se lo dovessi prendere alle 10 del mattino, sei tranquillo che poi la notte per me sarà una notte in bianco, non dormo proprio, non capisco per quale motivo, però è così. Se lo prendo a quest'ora sicuramente non dormo per 3 giorni, io Marco. E tu lo stai prendendo a quest'ora il caffè, mamma mia, vai da lì. Broccolo! A casa solo caffè decaffeinato, se no mischianza. Avanti il brocco. Il brocco l'ho detto, ciao Marcolino, ciao Giulio e ciao Natalino, poi la so chi sia. Ci ritenga salutato. Ciao, ciao Tony, bene arrivato, sì, c'è anche Natalino. E ci dovrebbe essere anche Giovanni Frattamone e Stampai però in questo momento. Non so se riprende. Riprendi ancora, Tony, vai. Ecco, però so che argomento aveva, l'ho appena acceso, a voi. Ho detto solo che Marco ha detto che ha fatto il caffè per la mamma e lui non ce l'ha ancora preso. E tu Giulia hai detto che se lo prendo io dalla mattina poi la notte non dormo. Io mi posso fare pure un caffè la sera, alle 9, anche dopo cena, però poi mi dormo più di prima, per me è un sonnifero. Certo, sta beato te, tante persone fa quell'effetto, lo prendo anche la notte tardi e poi continuo. Io già dormo poco di mio, figurati un po' quando prendo il caffè proprio, tutto zero completo dormire per me. Ma prendendo anche alle 9, alle 10 del mattino, no, purtroppo non lo so per quale motivo, ma è così. Natalia, riprendi. Saluto a Tonino. Però c'è gente che è molto sensibile al caffè, per esempio c'è mio nipote che se beve un caffè a Trimurida, lo va da Trimurida proprio, gli fa proprio male, non ne beve per quello. Io lo stesso sono come Tonino, se me lo bevo dormo ugualmente, non c'è problema, però certi sono sensibili al caffè e gli fa effetto di brutto. E non sono tutti che lo sopportano, Tari, tutti come me giustamente, io proprio non ne ho, una bottiglia qualsiasi ora mi troppo. E beh Marco lì, allora, questo caffè è bevuto te dai? No, non c'è fretta, tanto ripeto, è decaffeinato. Anche tu c'hai quell'apparato? Adesso una domanda così. Quell'apparato c'è? Spiegati video. Ah no, non so se ce l'ha ancora, il 5555, come si chiama, no? Siccome eravamo arrivati a 4 persone sul canale con lo stesso apparato, con vari nomi ma lo stesso apparato. No, io quello non ce l'ho più dato via, quello si trova appoggiata. Niente, io sto usando un presidente Zaccheri, l'ho dato al canale, la stagione fissa. Ah, me lo ricordo, sì, l'avevo visto su internet, è un vecchio baracco. Ok, va bene, allora riprendete, allora fate girare. Natalino stava dicendo che era disgustato per quella storia lì, io e Natalia Fottidini. Ma anche come si stanno comportando, perché io li ho sentiti nelle bande V e U. E ce lo stanno dando tipo baracchino, anche con linguaggio scurrile, stavamo parlando di quello con Giulio, capito? E poi dicono che sono maleducati i CB, ma se uno è OM deve comportarsi da OM, non da CB, capito? Infatti io se passavo quell'esame, stavo dicendo, non mi sarei mai sognato di essere scurrile o cosa di quel genere. Uno deve avere un certo comportamento, capito? Ma io manco da CB parlo male. Se c'è da scherzare, scherziamo, ma siamo in banda CB, non in banda radioamatoriale. Bene, sono andato giù. Vabbè, certo, sì, perché stavo dicendo, ieri, io di tanto in tanto, quando accendo il computer, vado sullo web SDR, no? E lì c'è tutta la banda radioamatoriale, e c'era un gruppo di romanisti, di romani, dovrebbe sentire nel modo come parlavano, ma quando mai capita che i veri amatori invece sì, in SDR devi parlare in quella maniera, tutti in una maniera sporca, sporca, sporca. Questo era un gruppo di persone, o erano ubriachi, che ne so, tutti romani, erano, perlomeno dalla pronuncia erano tutti romani, Tony. Dipende comunque, dai, c'è persone che usano un certo tipo di linguaggio, capito? Quindi, ripeto, io non ascolto, se voglio ascoltare, se sento una ruota che parlano come parlano, se non mi piace manco c'entro, cambio canale e non me ne frutti nulla. Io parlo normale, ma certo se uno mi risponde male io rispondo male, non sono fuori la traguancia, io sono fatto così giù, non me ne frutti nulla. Parlo educatamente o quanto, ma se uno mi tratta male, io tratto male. Andrà bene, avanti Natali. Sì, ma c'è da vergognarsi, cara. Io mi vergogno a parte di loro a parlare in banda radioamatoriale con quel linguaggio così. È vergognoso, dai. Se siamo in banda CB può anche passare, che non può passare, perché bisogna essere educati anche qua. Capito? A me lo stesso, siccome qualche volta mi è sfuggita qualche parolaccia, hanno detto che io non ero degno di poter passare a quelle frequenze lì. Però ero in banda CB, capito? Quello perché sei cucuma, è diverso. Beh, pure tu lo sai. Tutto gonfio sei, Natali. E infatti sono tutto gonfio. Eccolo, eccolo, buonasera ai nuovi entrati, a Tonino e all'altro, che non ho capito chi è. Ma Giovanni si è abbassato di segnale rispetto a prima, non sbaglio? Sì, infatti lo sento basso basso. Lascia stare con era Giovanni, mani secche. Stavo cercando di regolarlo, cazzo, sbaglio sempre. Adesso lo devo aver azzeccato perché ho visto che è salito. E lascialo così, non lo toccare da com'è. Se no non ti sentiamo, perché tu sei più distante, noi siamo un tiro di schioppo tutti, e bene o male ci sentiamo, ma tu sei più distante e se tu abbassi ti sentiamo male, era quello il problema. Ma Giovanni, dove sei tu, con che ci hai sentito? Ciao, al certo pettine sono. Come mi sta arrivando a bomba? Lo vedi, c'è la cicca perfetta, come ti arrivo là io? No, va a fondo scala anche qua, tutti, meno male tutti a fondo scala e state arrivando. Vabbè, io sono zona San Camillo comunque. Sì, Giovanni adesso è tornato forte, segnale 9 modulato 9.5, Giovanni io adesso ho messo i 12 watt di serie, che però in antenna ne arrivano meno, com'è? Va bene, mi copi bene, la passo la propagazione almeno. A fondo scala, sì. Con sempre abbiamo lo stesso apparato adesso, no? Sì, non è cambiato, io. Sto usando anch'io l'apparato tuo, che poi c'era anche Giulio, che c'era anche Natalino. C'erano tutti in monomarca, tranne, vabbè, Tonino l'aveva dato perché non ci si trovava. No, io ci metto quelli che sono qua di gara, che si va bene, sono andato appunto. Con questo qua, stazione fissa, che sono fatta a canale, ma va troppo bene. A me è semplice, quando c'ha molte complicazioni a me non mi va più, capito? Tanto, si modula sempre sul 10, sul 23, sul 12, 15, 18, 21, siamo lì, capito? Non stai lì a andare a frequenza, sì, per fare qualche DX, va bene, puoi andare fuori. Ma il resto, a me va bene così comunque, dai. Tanto, più si invecchia Marcolino, e più andiamo nei modi arretrati della volta ai baracchini, li prendi. Bei tempi, già c'erano casini all'epoca, però quanta gente, adesso c'ho i social, no, a me i social non, vedi, rispetto al baracchino i social non sono mai piaciuti, e poi anche mettere in piazza troppe cose personali, troppe foto personali, c'è adesso vi faccio un paragone, vabbè brutto, ma c'è gente che sta morendo di malattie importanti, anche il giorno della morte fa la sua live su YouTube. Quella non lo so cos'è, se è uno spettacolo di cattivo gusto, non, tanto quelli che seguono alla fine si affuttini, cioè sì, si mettono il cuoricino dopo quando non ci sei più, però è una cosa malata mi sembra, capito? Questo di mettere in piazza tutta la propria vita, anche i propri malanni gravi. Ce l'ho detto, ci sono TikToker che fino all'ultimo giorno di vita hanno fatto la live, tutti i bacini, i cuoricini, poi non gliela futti nuda ai vivi, capito, di che non c'è più. Aspetta, Giulio è rimasto in parcheggio, sì, comunque il telefonino ha rovinato tanti ragazzi, perché così, dove mangiano, dove studiano, dove vanno in bagno, sempre troppo lì appresso, che cavolo, avanti Giulio. Ok Tony, sì, beh, in effetti è così, no, io no, non ci sono mai entrato in Facebook, non so nemmeno come si fa per entrarci, penso un po', per cui no, non è una cosa che non mi ha mai interessato. Seguo molto, casomai seguo YouTube, quello sì, io col tablet, diciamo che nel male in un'intera giornata ho un bel po' di ore già uso il tablet, magari un po' adesso, dopo magari mi stanco, dopo lo metto a parte, dopo un'ora lo riprendo e così via, ma sempre su YouTube e vedo tanti filmati, tante cose di ogni genere, per cui non ho di questi problemi di scusate la tosse, non ho questi problemi di fare diciamo così su YouTube, su Facebook, assolutamente no, non mi è mai interessato, non mi piace nemmeno, va bene così, avanti Natale. Infatti dai, signori, io vi devo lasciare, devo preparare qualcosa per cenare, perché praticamente devo prendermi delle pastiglie, ci sentiamo, Alice, vi ascolto, vai, se ci siete vi prendo più tardi. Ok, ripeto io, ciao Natali, che mi ha chiamato la bassa e quindi mi devo trattare un po' al telefono. Ok, ciao Natali, buon cuore D, buon cuore X, quello che fai, ciao Giulio, ciao Marcolino, ciao Giovanni, e chi c'è altro, non mi ricordo più, ok, ci sentiamo, ciao a tutti, a più tardi se è possibile. Ok, ciao Tony, fatevi sentire la sera, bene o male, se combinano gli orari, così ci facciamo sempre due chiacchiere, così cerchiamo di tenere viva la frequenza. Ok, ciao di nuovo Tony, grazie per la chiacchierata, ti mando avanti Giovanni per i saluti finali, vai Giovanni per Tonino. Sì Tonino, saluti anche da parte mia e buon proseguimento di serata. Più tardi sicuramente non ci sarò, ne approfitto anche a salutare a Natalino, buon appetito e buon tutto. Ciao Natalino. E riprendo io appunto anche per salutare Natalino, che l'ho dimenticato, poc'anzi di farlo, e alle prossime Natalino, vabbè noi già ci sentiamo giornalmente, non c'è problema. Avanti Marco. Papà. Avevo un segnale? Sì, vedevo un segnale come di propagazione, non saprei, con le oscillava. Va bene, ciao Tonino, ci sentiamo le prossime. Ciao Natalino, buona preparazione. Stavo controllando le varie funzioni dell'apparato, è fermo 2 mesi questo, almeno 2 mesi. Sto controllando, bip, funziona, vediamo se funziona l'eco. Prova. Sì. Anche l'eco è passata. Sì, tutto a posto, non c'è problema. E anche bello quell'eco, perlomeno così, regolato come l'hai messo adesso, è anche abbastanza bello. Avanti Giovanni. Io ho cambiato Giulio, come mi ascolti adesso? Io ti ascolto sempre bene Giovanni, non c'è problema, figurati, Santiago 9.95, Pocanzieri oltre 9.10, ma comunque va benissimo, no? La radio è ottima, per cui non c'è problema, per me se la distanza non è vicino, ma non è nemmeno così distante da avere problemi d'ascolto, va benissimo. Avanti ancora Giovanni, fai girare su per Marco. Sì, a Marco, fai un passaggio Marco, ma mi sembra che ti sentivo bene, rifai un passaggio. Sì, ho sentito il bip diverso, il tuo bip, sembra un bip tipo quegli apparati AM International, tipo Viking 2, Multimode 2, Multimode 3, Concorde, quelli là, chiedo conferma. Io mi sto guardando alle spalle, ho detto questo è dietro di me, l'hai azzeccata, proprio lui è il Viking 2. Ah, sì, l'abbiamo avuto anche noi, l'avevano comprato nell'86-87, diciamo, a parte gli splatter che all'epoca ne prendevano parecchi, usciva discretamente bene in radio, aveva, vabbè, AM/FM, però aveva tanti canali sopra e sotto, ed era, anche era piccolino anche di frontale, sì. Va bene, riprendi Giulio, cosa ti volevo dire di quella storia dei social? Non so se voi avete visto il Truman Show, il film The Truman Show, dove praticamente uno veniva spiato da quando nasceva a sua insaputa, da quando è nato a, fin che si è accorto della magagna. E questo dei social, di pubblicare troppe cose strettamente personali, è come una specie di Truman Show autoinflitto. Se c'è un limite alle informazioni che devi dare su internet, boh, comunque contenti loro. Vai Giulio. Ok Marco, ma io secondo me, io la considero una stupidità entrare in Facebook per poi andare e raccontare tutti i fatti personali di tutti, che poi tra l'altro a un certo punto, sai, c'è quello magari che sei amico e ti incoraggia anche a continuare su quella linea lì, beh, c'è quell'altro magari che ti critica anche, sicché non è vero motivo perché uno debba entrare lì e mettere in piazza tutte le proprie cose, è quello che mette le fotografie di quello che mangia e quell'altro mette le fotografie di tante altre cose, ma chi se ne frega, il dialogo è bello, non ci sono dubbi, però deve essere sempre limitato ad una regola di vita normale, non a far sapere a cani e pulci tutto ciò che uno va, quante volte va in bagno, non va bene secondo me. Avanti Giova. Sì, la penso anch'io così, dai, io la verità ci sto, è su internet, non me ne nego, ma pubblico vignette, barzellette, oppure qualche video divertente che fa ridere, ma i miei cosi personali se li tengo per me. Ma è così che deve essere, Giovanni, è così che deve essere. Non c'è bisogno di andare lì a sbandierare 4 viti, non lo so per quale motivo questa gente lo fa, ma vabbè, tu mi dirai, ma evidentemente la gente non ha niente da nascondere. Sì, ma non è il discorso di, ci vuole anche un pochino di un minimo di dignità, la persona se la deve anche riguardare, no? Io suppongo che debba essere così. Avanti Marco. Vabbè, comunque sì, poi da, diciamo, questa roba da suefazione, come quei ragazzi che vivono di videogiochi, di videogame, che non si possono staccare più dalla TV, dalla console di gioco, e quando glieli tolgono hanno vere e proprie crisi d'astinenza. Tu immaginati se, Giulio, come per magia, se internet si spegnesse all'istante, no? Di botto. E questi che sono assuefatti ai social a tal punto che si troverebbero quasi isolati, avrebbero quasi delle tipo crisi di panico, crisi d'astinenza, capito? Sì, beh, certo, ma quelli dicono che lo fanno perché poi fanno i video e guadagnano anche soldi, boh, non so in che maniera poi riescono a guadagnare soldi questa gente, tipo quello che aveva ammazzato tempo fa quel ragazzino che era con la madre in macchina, è arrivato questo a oltre 100 km d'ora facendo un video con una macchina potente, e aveva stellonato questa macchinetta da niente ed era molto quel ragazzino, solo per il gusto di aver fatto un video per poi metterlo su Facebook. Ma dai, ma quella gente da arrestare subito, non è possibile che si possa accettare certe cose. Fai il video mentre tu guidi, per cosa? Per poi metterlo su Facebook. Per fare che cosa? Che cosa guadagni? Loro dicono che guadagnano soldi, facendo questi video dicono che guadagnano soldi, non so in che modo fanno, comunque lo guadagnano. Avanti Giovanni. Oh, non si è sentato, ma magari ha avuto una priorità. Sì Giulio, ci sono certi che molti che guadagnano su YouTube, su Patreon, su tante piattaforme, però alcuni creano contenuti interessanti, veramente interessanti, anche di cultura generale, tipo come può essere Geopop oppure quell'altro, di cui non mi viene il nome, ma molti fanno fesserie. proprio video stupidi, balletti, certi campano anche facendo dei semplici gesti, cioè ti fanno vedere una situazione, lui fa una specie di gesto, quel nero, adesso non mi ricordo come si chiama, e questo si è fatto d'oro, facendo fesserie, e quello perché? Perché ci sono le capre, altrettanto stupide, che campano, vivono di quelle fesserie che vengono pubblicate. Cioè, i contenuti certi sono molto di qualità, molto anche proprio utili, come fosse un documentario, sai, Focus, quella roba, ma certe sono proprio cose per capre, video per capre. Fai, Giulio. Sì, in effetti è così, ma io capisco, perché io ripeto, come ho detto poc'altro, seguo abbastanza YouTube, ma anche lì ci sono i video, ma io seguo i video seri, tipo che so io, il piccolo Bita che sta facendo ad esempio scuola di falegnameria, oppure scuola di elettronica o di elettromeccanica, queste cose qua va bene, perché fanno il video e guadagnano, e sono contento anche di guardarli i video per farli guadagnare, ma se tu mi presenti un video con una telecamera che stai correndo a 110 all'ora, 120 all'ora, e speroni una macchina e ammazzi un bambino, ma dico io, non solo quello, perché ci sono stati tanti altri incidenti fatti sempre allo stesso modo, per la malvagità mentale che hanno queste persone di fare certi video, ma non è possibile, guarda, io quelli non li guarderei mai, intanto quei video lì, però li senti, perché poi succede un incidente, te li mettono sui giornali, i giornali li leggiamo tutti, e per cui queste cose veniamo a saperle, ma io non mi fermerò mai a guardare un video del genere, mi posso fermare a vedere un video, ad esempio, di uno che sta facendo lezione, ad esempio, come lo seguo sempre, c'è un tipo, anzi più di uno, che fa lezione di falegnameria, e quello si sta guadagnando il pane in quel modo, va bene, e io per curiosità, non è che ho bisogno di guardare il video di falegnameria, visto che l'ho fatto per 60 anni quel lavoro, però la curiosità di vedere che cosa insegnano, che cosa fanno, alle volte mi fanno ridere, ma alle volte dico, beh, è stato bravo, in questa occasione è stato anche bravo questa persona qua, capito cosa intendo, Marco? Ragazzi, sì, esattamente, per vedere come operano le falegnamerie moderne, i materiali, se ci sono materiali nuovi, particolari, no, per rivestire il legno, che ne so io, materiali sintetici, che poi adesso almeno una volta nei negozi di mobili trovavi veri mobili, ma adesso trovi mobili che sono fatti di quella, non masonite, come si chiama, quel truciolare, praticamente segatura incollata con una lamina finto legno applicata sopra, i mobili del mercatone, vabbè, anche noi già li prendiamo, sai, quegli armadietti, tanto questa non è che sia una casa di quelle antiche, no, come stile, però è roba proprio usa e getta, che ti dura qualche stagione, magari qualche anno, poi cominciano a sfasciarsi, capito? Io li chiamo mobili di segatura compressa e incollata. Vai, Giulio, vediamo se viene fatto Giovanni un attimo. Giovanni? Sì, voglio rientrare perché vi devo salutare, ragazzi, un po' che sto provando. Dai, buon proseguimento di serata, me ne devo rientrare. Ciao Giulio, ciao Marco, è stato un piacere parlare con voi, ascoltarvi, dai, alle prossime sconfitte. Ok, ciao Giovanni, grazie a te per la chiacchierata, è sempre un piacere ascoltarti, fatti sentire, quando ci senti entra, così facciamo sempre due chiacchiere, che è veramente un piacere parlare con te. Avanti Marco per salutare Giovanni. Ciao Giovanni, dai, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, buona cena quando la farai, e vabbè, invito anche a te a entrare più spesso, magari io non ci sarò che sono uccel di bosco, però qualcuno come Natalino, Giulio, lo trovi sempre, dai. Ok, dai, buon proseguimento di serata. E così, hai capito Giulio cosa ti ho detto dei mobili? Una volta erano mobili veri, in legno vero, adesso è segatura incollata. Poi vabbè, se uno vuole mobili buoni o se li fa fare, non so nemmeno più se a Sassari o Giulio ci siano veri negozi di mobili, di veri mobili, dico. Sì, qualcuno già c'è, qualche negozio già c'è, ma diciamo che ormai tutta l'attività commerciale è improntata a Fredda Nieda praticamente, ma di ogni genere, di ogni articolo. piccolo, indubbiamente, ma comunque a Sassari qualche negozio ancora buono già c'è, dove vendono mobili come si deve, non come quelli ad esempio che vendono, tanto per fare un esempio, da un mondo convenienza, no? Ma per carità, dai, vabbè, costano una miseria, però in base a quello che paghi hai, non è che hai un grande articolo nel modo più assoluto. No, ma stavo dicendo, io su YouTube vedo queste cose che non è che ti insegnano un mestiere, no, indubbiamente non ti insegnano, però ti insegno che so io fare, tanto per fare un esempio, degli incastri, dei collegamenti a tipo coda di rondine, oppure degli incastri a senone, o dei tagli a squadra, queste cose qui certo non ti insegnano a fare un mobile o a fare serramenti o porti o finestre, eccetera, no, assolutamente no, non te ne segneranno mai queste cose qua, anche perché no, non è possibile poter insegnare, per fare certe cose ci vuole anche attrezzatura. Per dirti, no, però piccole manovalanze così se la possono anche insegnare, fatti vedere come si fa, ad esempio fare un cofanetto, un piccolo tavolinetto, un piccolo uno sgabello, una sedia, per dire, per farti vedere come si fanno gli scavi per poter fare poi i collegamenti tra i pezzi di legno. Queste cose ti insegnano, certo non ti insegnano a fare un armadio o una scala a chiocciola o una scala a giorno, no, nella maniera più assoluta o Marco, assolutamente no. Sì, e insomma, da. Va bene, comunque sì, il canale menzionato prima, Focus, quello è interessante, a me piace in particolare quando parlano di astronomia o di tecnologie, gli animali vabbè un po' meno perché è una vita che, vabbè, vedo documentari sugli animali, bene o male sono quelli, ma quando parlano di nuove scoperte in campo tecnologico, oppure che parlano anche dell'universo, quello alle volte mi prende male quello, è perché anche concepire una cosa che in teoria non ha mai fine per la mente dell'uomo è una volta ma va preso, lo sai, quando ero, ma ti parlo di tantissimi anni fa, per non dire decenni, guardando uno di questi programmi era fatto in modo talmente un po' inquietante e parlava dell'universo che mi era venuto una specie di attacco d'ansia, ero ancora ragazzino, mi ricordo. Sì, ma lì già incominciamo ad entrare in un campo molto ma molto più impegnativo, non ci sono dubbi, quando tu entri a fare a vedere quelle trasmissioni così di Focus, non è come vedere, per dire, un piccolo filmato alla su YouTube o sul tablet o addirittura sul computer che ti spiega come funziona ad esempio un transistor. Sono quelle lì ti parlano addirittura di cose spaziali, di cose extra come dire, nucleari, eccetera, bisogna essere molto, molto, intanto devi avere un minimo di base per poter capire veramente ciò di cosa parlano, se no non tu ascolti, però alla fin fine non hai capito niente, perlomeno io suppongo che sia così. E poi sono delle trasmissioni molto, ma molto impegnative, ci vuole una grande passione, oltre che un grande cervello, per poter seguire attentamente certo tipo di discorsi, o Marco. Mi doppia levito il ciucucciù, mi avanti il ciucucciù. Non sentivo un ciucucciù autentico da tanto tempo. Anche quello era bello, il ciucucciù, anche quello ha fatto la sua epoca e la sua storia. Il ciucucciù in frequenza, Marco. Lo passo? Sì, già lo passo. Non c'è problema. Sì, ma è così. Comunque il ciucucciù era bello, la verità. Adesso me l'ho fatto ritornare in mente quando già tanti anni fa già si faceva ciucucciù. Bene, bene. Avanti l'amico ciucucciù, se vuoi entrare, un piacere. Niente, via. Che poi perché ciucucciù? Lo facevano a Paoletto, lo facevano. Perché proprio ciucucciù e non un altro buon verso, come dire. Va bene. Dunque sì, certi programmi, diciamo, magari i programmi si focus lo fanno abbastanza capibile, dai, perché tanto sanno che il range di pubblico è abbastanza vasto, ma se tu prendi un libro spinto di... Una volta non capivo manco, c'erano degli schemi, delle formule... Non capisco cosa fosse, era roba spinta, era di elettronica, di radiofrequenza, non mi ricordo dove, era praticamente un libro digitale, no, formato PDF, che parlava in modo spinto di certe cose relative a spettri elettromagnetici. Giulio era arabo, non era il normale libro radiotecnica per radiatori, era una cosa ancora più folle. Non l'ho più trovato, credo di averlo rimosso inconsciamente, cancellato dal computer. Sì, beh sì, certo, lo so, appunto lo sto dicendo, entriamo in un ragionamento molto, molto più difficile, molto da capire, e si deve anche impegnare, invece le quattro chiacchiere che facciamo noi al baracchino serve più che altro per rilassarsi e basta. Adesso ti voglio raccontare com'è nata la storia del Cucciuo, o Marco, ti interessa? L'originale degli anni 70 e 72, là. Sì, appunto, è curioso sapere le origini, perché proprio Ciu-Ciu e non un altro verso, vai. Allora, tu non so se hai mai sentito un CB, ma non credo però, perché sei giovane, che si chiamava Macallan in frequenza. No, mai sentito. Ecco, allora, il Ciu-Ciu è nato proprio, diciamo così, per sfottere Macallan. Siccome Macallan era un ferroviere, ha lavorato in ferrovia, no? E il Ciu-Ciu era il segno del treno, no? Come quando parte il treno. E dunque c'era qualcuno che per sfottere Macallan, e allora diceva, faceva Ciu-Ciu, faceva. Ecco come è nata la storia del Ciu-Ciu. E da allora diciamo che ha preso piede e ancora oggi, a quanto sembra, lo risentiamo, questo Ciu-Ciu. Ecco, sì, come dire ciuf ciuf, come di simulare il coso del treno, il suono delle... Vabbè, il ciuf ciuf era proprio della ciminiera di quei treni a carbone, e quello invece è un suono simile proprio al trascinamento sui binari, da quando becca quei giunti, da, già ho capito. No, perché io avevo visto una volta una specie di fuoco artificiale, io vabbè da bambino ne usavo sempre, no? E non sai quelle fanno luce, cose, no? Fuochi artificiali banali, no? E c'era scritto su questo fuoco artificiale, proprio così, ciuc-ciuc-ciuc-ciuc, con lo CK. Ha detto, ma ho avuto origine da una cosa del genere. Sai quelli che fischiano, no? Quelle cose lì, invece l'origine era diversa. Macallan, ma Macallan era il nominativo del baracchino o un soprannome così generico? Sì, sì, era il nome del baracchino, che poi c'era anche il figlio che anche lui aveva lavorato, se ricordo bene, anche lui aveva lavorato per un certo periodo in ferrovia, cioè a quella della notte c'era il figlio anche. Per cui, siccome era un uomo anziano, che era in pensione, già da quando io ero giovane, ti puoi immaginare, lui era già in pensione. E io l'ho anche conosciuto di persona, era un vecchio CB, e poi tra l'altro era uno che era anche molto socievole, se vogliamo, era uno intanto che sapeva anche parlare. E dunque questo, sai, allora a quei tempi c'era sempre qualcuno che aveva voglia di sfottere, e appunto era nato questo problema del, cioè questo suono o così vocale del Ciu-Ciu, proprio per simulare il rumore del treno, che lui era un ex ferroviere, tutto lì o Marco. E poi era un amico che andava sempre insieme a Rosa Verde, Nino Rosa Verde, e devo dire che qualche bicchiere insieme se l'hanno bevuto, e più di una volta si sono anche bronzati insieme. Avevano l'abitudine di andare sempre e soprattutto la mattina presto lì al bar Trieste e al corso Vittorio Emanuele, andavano tutti e due, sia Rosa Verde che Macallan. Vai Marco. Sì, Roger Verde, sentito di lo stesso di nome, era quello che aveva col dipolo interno, mi pare, che si caricava la batteria, sì. E vabbè, storia antica, solo per sentito dire, perché ragazzi io non li ho conosciuti, sono entrato, ripeto, nell'84 e erano già, credo, spariti. No, è appunto, io sono entrato nel 72, lui c'era già da qualche anno anche. E poi era quello che, siccome prima si faceva la concessione, si chiedeva per poter esercitare su questa frequenza, no? Addirittura bisognava fare anche la domanda in questura per poter avere il permesso di modulare, eccetera. Ed era quello che, siccome la concessione l'aveva deliberata la legge nel 1973 e poi nel 74 tutti quanti abbiamo fatto la concessione, ed era lui quello che si interessava e dava lo stampato, dove appunto poi lo compilavi e lo spedivi a Cagliari e ti mandavano la concessione dietro poi il pagamento di 15 euro come era allora annuali per la concessione, e raccomandata naturalmente con ricevuta e ritorno, eccetera eccetera. Oggi tutta questa trafila tirata da qualche anno fa non esiste più, ma prima era così, Marco. E lui era quello che appunto ha aiutato tantissimi cibigli allora col fatto del modulo prestampato, e la gente ha usufruito appunto di questo stampato per fare la domanda allora, capito? Cappa, sì, mi ricordo anche il fatto che in questura dovevi dichiarare, aspetta, com'era la... non mi ricordo cosa dovevi fare, una denuncia di possesso, sì, denunciare il baracchino omologato in questura. Pensa che all'inizio a noi non ci avevano avvisato, i CB ci avevano detto solo che ci voleva la concessione e mamma l'aveva fatta, però non ci avevano avvisato che in questura bisognava comunicare un qualcosa, no? Insomma, dopo un po' di tempo arriva questa raccomandata che diceva, indirizzata a mamma, che era la titolare, cioè, la signoria vostra è presentata, è pregata di presentarsi presso non so, i nostri uffici per discutere di affari di polizia. Ho detto, ma fatta è, qualche cosa abbiamo combinato al baracchino. Ho detto, piglia il passaporto e scappiamo. No, vabbè, andiamo lì. Infatti non sapevamo di cosa si trattasse. È un tizio gentilissimo, non so se fosse commissario o cos'era, ci aveva spiegato che semplicemente dovevamo, mi pare di ricordare così, denunciare il possesso del baracchino, no? Marca, modello, numero di serie, tutto lì. Sì, infatti era così, allora era così, non bastava fare la domanda solamente a Cagliari, bisognava fare anche la domanda in questura, era una specie come passaporto, quasi come il passaporto, doveva avere il permesso sia da Cagliari, dalle poste di Cagliari e poi anche dalla questura, era così. Oggi invece ormai non esiste più questo problema qua, dunque è libero e possiamo modulare tranquillamente senza nessuno, interessante non rompere mai le scatole a nessuno. E sai cos'è? Che allora in quel periodo c'erano tanti disturbi, c'erano perché le apparecchiature erano quelle che erano, anche i televisori di allora erano quelli che erano, sai che tanta gente aveva dei problemi, delle interferenze, e allora sarà stato anche per quello, non lo so o Marco per quale motivo, il fatto sta, ci voleva questa autorizzazione per poter trasmettere. Forse, anzi ti dirò, forse ai tuoi tempi, Giulio, quando hai fatto la concessione tu, era ancora più stretta la cosa, e da noi si erano limitati a dire che c'era la... dovevamo denunciare il baracchino in questura, solo, cioè non era nemmeno un permesso, dovevi denunciare il possesso, marca, modello, numero di serie. Poi sono andati piano piano a ammorbidire la cosa, dai, non c'era più l'obbligo, poi la concessione è molto più snella, si è chiamata dichiarazione di, come era, iniziatività, ma come lo ricordo più. E così, dai, adesso l'hanno abolito tutto, figurati. Eppure mi ricordo che all'epoca, e non solo all'epoca, ma ti parlo anche primi anni 2000, forse fino al 2010, c'erano dei casi dove il baracchino veniva visto, cioè le antenne in macchina venivano viste con molto sospetto. Per esempio, ti faccio un esempio, roba all'età online. all'epoca, e ti parlo del 2000 e dintorni, tipo questa macchina ferma davanti a una banca o gioielleria, articoli così letti un po' qua e là, no? E questa macchina semplicemente ferma con gente dentro e si vedeva questa antenna che non era l'antenna autoradio. Beh, e quelli impauriti, o gioiellieri o banchiero chi era, impauriti per questa antenna hanno chiamato la polizia per verificare chi fossero, capito? Se non ci fosse stata l'antenna del baracchino non sarebbe successo niente. Veniva vista sempre con sospetto, come se chi avesse la radio fossero delinquenti o poliziotti, come è successo a me. Andavo lì a San Francesco, no? Di sera magari all'imbrunire col baracchino, e come questi, tutte quelle greffe di lì, no? Tutti i fraggiatori, come vedevo l'antenna, in bosca, che viso gli sbirri, capito? Per loro l'antenna voleva dire sbirri, per qualcuno voleva dire delinquenti, capito? È stato visto sempre giù il bar, che non lo so perché. Sì, ma in effetti è così, probabilmente c'era anche una certa paura da parte delle autorità, perché allora si trasmetteva e magari potevano pensare che uno poteva essere, che so io, una spia o qualcosa che poteva trasmettere delle cose molto importanti riguardanti anche l'attività dell'Italia, eccetera. Sai, sarà stato anche per quello, non lo so assolutamente. Il fatto sta, c'erano quelle regole le abbiamo tutte rispettate, non è che non le abbiamo rispettate. Sì, c'era qualcuno che era abusivo, che è sempre stato abusivo, eccetera, ma io dal primo momento che hanno loro fatto la legge, ripeto, dal 1973 è stata emanata la legge, nel 74 tutti o quasi tutti avevamo la concessione, no? Non c'era che dire, però c'è sempre stato qualcuno invece che ha fatto l'abusivo lo stesso, ma erano sciocchezze tutto sommato, perché a chi è che facevi del male con un baracchino che arrivavi da qui a San Giovanni, tanto per fare l'esempio, non è che uno poteva andare e parlare all'infinito o a lunghissima distanza, eccetto di quando c'è propagazione. Era così allora, capito Marco? Ma evidentemente c'era della diffidenza da parte delle autorità e non ti permettevano di modulare senza l'autorizzazione. Tutto lì. Le autorità posso capire, ma anche che, non so, ma anche i gioiellieri si allarmino per un'antenna. E guarda che ti sto parlando, dopo il 2000, cioè esistevano già i cellulari per comunicare, esisteva internet, quindi magari non parlavo di tempi dove c'era solo la radio per comunicare a distanza. Eppure, vabbè, quella è la paura delle persone, certi hanno paura di tutto, capito, vedo un'antenna, una macchina con un'antenna fuori da una banca, si allarmano, non lo so, c'è gente che vive veramente nel terrore, ne conosco qualcuna, vabbè, adesso non voglio fare esempi, ho un'amica di mamma, è una certa età anche lei, ma è una persona che ha paura di tutto, vive nel terrore. Basti dire che se tuttora con mascherina, ovunque vada sempre con mascherina, anche se sola in strada che non c'è un cane, la mascherina indosso, cioè a un certo punto non è nemmeno vita vivere nella paura, avere paura di tutto, vabbè, io la penso così poi. Sì, beh certo, ma in effetti come dici sono quelle persone che sono proprio prudenti, proprio al massimo, proprio fino all'esaurimento, ma devo dire, ad esempio, per il fatto della mascherina, quando c'era il Covid, io l'ho usata proprio fino all'ultimo, fino a quando ho visto che ormai a Sassari nessuno più la usava, o meglio che in Italia ormai nessuno la usava, che poi devo dire che ancora non è nemmeno corretto, non è prudente nemmeno abbassare la guardia, perché sappiamo che esiste ancora, non con la pericolosità di prima, avete considerato che ci siamo vaccinati, eccetera, però diciamo che la prudenza non è mai troppa. E devo essere sincero, dove c'è un certo affollamento, sarebbe ancora corretto mettersi la mascherina, perché lo sappiamo benissimo. benissimo tutti i santissimi giorni, io di tanto in tanto interpello il telefonino e controllo per vedere quanti contagi ci sono, e devo dire che ce ne sono tanti, anzi diciamo che ultimamente hanno aumentato di numero anche qui in Sardegna, soprattutto hanno aumentato di numero i contagi, per cui bisogna stare molto attenti. Ma sarebbe una cattiva idea quando se vediamo una persona che continua a usare la mascherina, e perché no? Lasciamolo fare, evidentemente si sente più protetto e meglio per lui, no? Vabbè, in quel caso contenterei, però questa paura di tutto, paura dei ladri, paura di scippi, paura di questo, paura di quello, mamma mia, non si vive così. Io troverò ero più fatalista per certe cose, vada come vada, tanto vedo che poi le rogne arrivano. Giulio, adesso aspetta, mi aveva chiamato mamma, devo fare un'operazione un po' delicata, quindi gira, vista l'ora, non rientro nemmeno dopo, ok? Saluto anche Natalino che si starà ingozzando e ci sta ascoltando. Giulio, ben sentito, ben grazie delle controchiacchiere, e ci sentiamo poi quando capita, ok? Buon proseguimento di serata e quediti per me, vai Giulio. Ok, grazie a te Marco della chiacchierata e della serata, dai, diciamo che stasera un pochino ci siamo divertiti, c'è stato un certo numero di persone, abbiamo fatto un paio d'ore di questione, dai, va bene così, così cerchiamo di tenere viva la frequenza. Ciao ancora e grazie ancora per questo Marco, alle prossime, salutami Liu, alle prossime, ciao ciao, e anch'io intanto adesso dovrò fare terapia, per cui è arrivata quasi l'ora, anzi ci siamo proprio, e dovrò scendere anch'io per fare terapia, ciao ciao Marco, alle prossime, ciao. Capa, ciao a tutti, ciao ciao.